Sura ventunesima. Al-Anbiya. I profeti. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Si avvicina per gli uomini la resa dei loro conti, mentre essi incuranti trascurano. Non giunse loro alcun monito da parte del loro Signore che non ascoltassero i riverenti, con i cuori distratti, mentre gli ingiusti tengono tra loro segreti conciliaboli. Chi è costui se non un uomo come voi? Volete lasciarvi andare alla magia a voi che lucidamente vedete? Disse, il mio Signore conosce ogni parola pronunciata nel cielo e sulla terra. Egli tutto ascolta e conosce. Dissero, sono invece incubi confusi. O è lui che li ha inventati? Non è che un poeta? Ci mostri piuttosto un segno come quelli che furono inviati agli antichi profeti. Tutte le comunità che facemmo perire prima di loro non credettero. Crederanno questi? Prima di te non inviammo che uomini ai quali comunicammo la rivelazione. Chiedete alla gente della scrittura se non lo sapete. Non facemmo corpi che facessero a meno del cibo e neppure erano eterni. Realizzammo su di loro la promessa, salvammo loro e quelli che volemmo, e facemmo perire i prevaricatori. In verità abbiamo fatto scendere su di voi un libro contenente il monito per voi. Non comprenderete? Quante ingiuste città distruggemmo per suscitare poi un altro popolo. Quando avvertirono la nostra severità, fuggirono precipitosamente. Non fuggite, ritornate nel lusso e nelle vostre case. Forse ve ne sarà chiesto conto. Dissero, guai a noi, in vero, siamo stati ingiusti. Non smisero di gridarlo finché ne facemmo messi falciate, senza vita. Non è per gioco che creammo il cielo e la terra e quel che vi è frammezzo. Se avessimo voluto divertirci, lo avremmo fatto presso noi stessi, se mai avessimo voluto farlo. E invece no. Scagliamo la verità sulla menzogna, che le schiacci la testa. Ed ecco che essa scompare. Siate maledetti per quello che affermate. Solo a Lui appartengono tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra. Coloro che sono presso di Lui non disdegnano di adorarlo e non se ne stancano. Lo glorificano notte e giorno, ininterrottamente. Oppure, han tratto dalla terra divinità che risuscitano? Se nei cieli e sulla terra ci fossero altre divinità oltre ad Allah, già gli uni e l'altra sarebbero corrotti. Gloria ad Allah, Signore del trono, ben al di sopra di quello che gli attribuiscono. Non sarà lui ad essere interrogato, sono loro che lo saranno. Si sono presi dei all'infuori di lui? Di, mostrate la vostra prova. Questo è un monito per coloro che sono con me e per coloro che furono prima di me, ma la maggior parte di essi non conoscono la verità e se ne discostano. Non inviammo prima di te nessun messaggero senza rivelargli «Non c'è altro Dio che me, adoratemi». Dicono «Il compassionevole si è preso un figlio. Gloria a lui, quelli non sono che servi onorati, che mai precedono il suo dire e agiscono secondo il suo ordine. Egli conosce quel che li precede e quel che li segue, ed essi non intercedono se non in favore di coloro di cui si compiace». E sono compenetrati di timor di lui. Chi di loro dicesse, davvero io sono un Dio all'infuori di lui, lo compenseremo con l'inferno. È così che compensiamo gli ingiusti. Non sanno dunque i miscredenti che i cieli e la terra formavano una massa compatta? Poi li separammo e traemmo dall'acqua ogni essere vivente. Ancora non credono? Abbiamo infisso sulla terra le montagne affinché non oscilli coinvolgendoli e vi ponemmo larghi passi. Si sapranno dirigere? e del cielo abbiamo fatto una volta sicura, eppure essi si distolgono dai segni. Egli è colui che ha creato la notte e il giorno, il sole e la luna. Ciascuno naviga nella sua orbita. Non concedemmo all'immortalità a nessun uomo che ti ha preceduto. Dovresti forse morire se essi fossero immortali? Ogni anima gusterà la morte. Vi sottoporremo alla tentazione con il male e con il bene, e poi a noi sarete ricondotti. Quando i miscredenti ti vedono, non fanno che burlarsi di te. Cosa? È costui che dice male dei vostri dei? E negano il monito del compassionevole. L'uomo è stato creato di impazienza. Vi mostrerò i miei segni, non chiedetemi di affrettarli. Dicono, quando si realizzerà questa promessa? Ditecelo se siete veritieri. Ah, se i miscredenti conoscessero il momento in cui non potranno allontanare il fuoco dai loro volti e dalle loro schiene, e non potranno essere soccorsi. E invece giungerà loro all'improvviso e ne saranno sbalorditi. Non potranno allontanarlo e non sarà dato loro un rinvio. Già furono derisi i messaggeri che ti precedettero. Ciò di cui si burlavano avvolgerà coloro che deridevano. Di, chi potrebbe mai proteggervi notte e giorno dal compassionevole? E invece sono indifferenti al monito del loro Signore. Dispongono forse all'infuori di noi di dei che sappiano proteggerli? Questi non possono neppure difendere loro stessi, né trovare altri che li difendano contro di noi. In effetti, concedemmo a loro e ai loro avi un godimento effimero, finché non furono longevi. Non vedono che investiamo la terra riducendola da ogni lato? Sono forse loro i vincitori? Di, non faccio altro che avvertirvi con la rivelazione, ma i sordi non odono il richiamo quando li si avverte. Se solo li sfiorasse un alito del castigo del tuo Signore, certamente direbbero, guai a noi, in vero, siamo stati ingiusti. Rizzeremo bilance esatte nel giorno della resurrezione e nessuna anima subirà alcun torto. Fosse anche del peso di un granello di senape, lo riesumeremo. Basteremo noi a tirare le somme. In verità demmo a Mosè e ad Aronne il discrimine, una luce e un monito per i pii, che temono il loro Signore in quello che è invisibile e che trepidano per l'ora. Questo è un monito benedetto che abbiamo fatto scendere. Lo rinnegherete? Siamo noi che conducemmo Abramo sulla retta via, noi che lo conoscevamo. Quando disse a suo padre e alla sua gente, cosa sono queste statue in cui credete? Risposero, trovammo i nostri avi che le adoravano. Disse, certo siete stati nell'errore più palese, voi e i vostri avi. Dissero, sei venuto con la verità o stai scherzando? Disse, certo che no, il vostro Signore è il Signore dei cieli e della terra, è Lui che li ha creati e io sono tra coloro che lo attestano. E giuro per Allah che tramerò contro i vostri idoli non appena volterete le spalle. E infatti li ridusse in briciole, eccetto il più grande, affinché si rivolgessero ad esso. Dissero, chi ha fatto questo ai nostri dei è certo un iniquo. Disse qualcuno di loro, abbiamo sentito un giovane che li disprezzava, si chiama Abramo. Dissero, conducetelo al nostro cospetto affinché possano testimoniare. Dissero, o Abramo, sei stato tu a far questo ai nostri dei? Disse, è il più grande di loro che lo ha fatto, interrogateli se possono parlare. Si avvidero del loro imbarazzo e dissero tra loro, davvero siete stati ingiusti. Fecero un voltafaccia e dissero, ben sai che essi non parlano. Disse, adorate all'infuori di Allah qualcuno che non vi giova e non vi nuoce? Vergognatevi di voi stessi e di ciò che adorate all'infuori di Allah. Non ragionate dunque?

Se quegli altri fossero stati dei, non vi sarebbero entrati. Vi rimarranno tutti in perpetuo. Colà gemeranno, ma nessuno li ascolterà. Ne saranno esclusi coloro per i quali il nostro bene ha avuto il sopravvento. Non ne sentiranno il fragore e godranno per sempre quello che le loro anime desiderano. Non li affliggerà la grande angoscia e gli angeli li accoglieranno. Ecco il giorno che vi era stato promesso. Il giorno in cui avvolgeremo il cielo come gli scritti sono avvolti in rotoli. Come iniziammo la prima creazione, così la reitereremo. È nostra promessa. Saremo noi a farlo. Lo abbiamo scritto nel Salterio dopo che venne il monito. La terra sarà ereditata dai miei servi devoti. In verità in ciò vi è un messaggio per un popolo di adoratori. Non ti mandammo se non come misericordia per il creato. Di, in verità mi è stato rivelato che il vostro Dio è un Dio unico. Sarete musulmani? Se poi volgono le spalle, allora di, io vi ho avvertiti tutti senza discriminazioni. Ma non so se ciò che vi è stato promesso è prossimo o lontano. Egli conosce quello che proclamate e quello che tenete segreto. Non so se ciò sia una tentazione per voi, un effimero godimento. Di, mio Signore, giudica secondo verità. Il nostro Signore è il compassionevole, da Lui invochiamo aiuto contro ciò che affermate.